200 di cacciavite. Posso aprire l'attrezzatura di lavoro a parte, anche quella già ce n'è. Poi chi c'era l'alluminio che hai abbesso, cosa ride, E io. E il test, mi sa che è bello, pizza pirometrica. Sì, sì, sì. A proposito di test e pizza pirometrica, ne ho anche uno io. Però non funziona. Non funziona, non accende. Ma la batteria c'ha? Certo che c'è la batteria. Ma ora biglio, vedi. Agi, riprendi mano, Via. Comunque, quel lineare lì ti ha fatto una lavatrice, Tony. In poche parole. Manco la lavatrice, che la lavatrice avrebbe lavato, ma qui ci fa sì. La ragazza di Antonello. Ma come hanno fatto il riuscito pure? Ma non va più nessuno me. Arriva a vedere il gruppo. Qualcuno ce l'ha morte con lui, Cazzo, comunque qua lo passava da me. Da me non passava. Marco proprio nuda. Qua ti ho detto, arrivava a parte di mio, ho subito metto le RFI, lo porto a zero. Santiago 9-10. Non penso arriva a 6 bastone così. Il massimo che arrivano è 9. 9-5 cosami, Riccardino. Da te? Sì, da me il più forte è Riccardino. Cazzo, ve l'hai arrivi, attaccato. Questa portante è la più forte però. Allora era più vicino a te. Ho qualche lineare grosso, non lo so. Chissà chi c'è che in Gran Cido che mi aveva dato l'elettricista nostro. Questa è una pinza amperometrica con tester ma professionale Lafayette M200, a norma c'è, ma lo sai quanto è bella? Con la custodia, tutto, però non accende. Questa per dire, la porta e me la controlli. Sai quanto costa quello che c'ho io, Cla? 190 più IVA. Dici, questa è stata comprata alla Elcom. Questa è stata comprata alla Elcom. Lafayette. Te la porto. La vedi quanto è bella? Ma bella veramente, non me lo ricordavo, cazzo, guarda che me l'hai detto. Te la porto e me la controlli. Vedo che c'è il coso della batteria, però io non la voglio aprire, la controlli tu. Va bene. Ok, ci va la batteria da 9 volts, dovrebbe esserci comunque. Ma non si lasciano le batterie dentro, cra, perché rovinano tutto, cra. Ma là, lo viraggio una batteria da 9, esci a vedere. Ho detto, quando uno si usa un attrezzo, le batterie bisogna toglierle, cra. Io l'ho lasciata, boh. Ma guarda là proprio di. Guarda si è fatto quel verde rame, quel verde puzzinoso che ti casina tutto, però fatto il contatto bisogna pulirlo bene, cara. Ci vuole una batteria a 24 volts. Da 24. E te l'attacchi a culo. Beh, Lugarie. Ciao, cla, ciao. Ammazza di rivelare tutto. Ma mi accoppi, Lugarie. Ma mi senti, cla? Alla grande, tu mi senti? Fondo scala, l'altro chi è? E chi è, chi è? Chi sono io? Cavazza. Era ora me. No, Giuseppe, mi senti? Certo che ti sento. Dai, mi sono messo questa posizione, adesso ti sento. Niente, Cla, qua siamo, qua. No, qua ne ho staccato tutto. Vabbè, perché c'è arrivata la figlia della 25. Ma non sto più entrando neanche, non so se te ne sei accorto, non mi interessa. Sì, anche io entrai di gioco, io sono in campagna da giugno, figurati. Solo qua sto entrando a fare due chiacchiere con loro. No, non lo sai che poco c'entro su Facebook, io non me ne sono accorto. Cazzo, mentre Mastro Giovannino al piove hai fatto, cosa hai pigliato? Ora dalla mascella. Non so tutto, come a te, allo scalino, tre scalini. Cazzo, mentre Mastro Giovannino al piove hai fatto, Lugarie. Boh, non ti conosco più, cazzo. No, vabbè, dai, poi io ho fatto l'attacco, ho fatto delle visite, tutto a posto. C'ho un po' di scusate. Così che ho fratturato, cazzo. Ah, ma te l'hai fatto, ma lo sai, inciampato. E gli ho detto a Marina, io andiamo a farci un bagno. Perché lui giù ad Alghero, a casa di un amico, sono a casa per 10 giorni. E mi sono... Ciccio, cazzo. Sì, Tony, cazzo, tutto scidato, la mazza, nelle varie. Un attimo al telefono. Un casino, Cla. Visto, un attimo ci vuole, un attimo. Vabbè, pazienza. Adesso sono qua a raccontarlo, va. Non fa niente, han futti dindi. Già, quando uno racconta le cose già va bene. Luca, chi è? cazzo chi è? Sempre io gioco. Ma sei andato a pescare da poco? E pesci, molto li avete preso. A pescare? Quando sono andato a pescare? Mai. Nessun latino andato a pescare. Sarò 10 anni. Si è detto che è andato a pescare con te. Ha preso 2 ratte e 4 saraghi. Ma chi? 10 anni doppio più lungo. Forse con l'altro Luca, non con me. E chi è l'altro Luca? Flipper? Sì, Luca Flipper, sì. Ma non lo so. Ma è una cavazzacchina. È diverso. No, non sono andato, sono da anni che non vado. Chi è che ha detto mia Kawasaki, mi? Uno l'ha detto, mia Kawasaki! Oh, yeah. Avanti, chi ha detto mia Kawasaki? Sì, avanti, Vittorio, ciao, buonasera. Cattara, arriviamo nei cibice. Noi sempre qua siamo, oramai. Libera uscita per tutti, siamo sempre qua in PMR, se vai in 27. Non vai più nessuno. Vabbè, se sempre qua non siete là. Già. Sinistra. Oh, iaia, KK. Riconosciuto l'hai, Vittor? Ma, oh, Tony. Ma Vittorio è giovane. Allora, lui è sempre in giro e ci avessi accende sta goccia. Bello, Tony. Accende, accende. Funziona, K. Oh, Vittorio. Ehi, mo, dimmi. Ma sempre negozio là c'hai? Cosa devo fare? Se volevo aprire uno studio dal ginecologo, ma che se non sei laureato ti arrestano. E allora ti devo portare un qualcosa, dai. Posso portarti qualcosa? Sì, la mattina ci sto. Va bene, di mattina allora. Tanto se mi si apposta a provincia lo faccio a mezzogiorno, quindi a voglia, di mattina presto già passo. Perché io mi sono fidato una persona e quanto pare ha fatto più casino, per carità. Ebbene, a proposito, Vittu, Lauretta, tutto bene? Certo che sì, buonasera a tutti, un abbraccio a tutti e un bacio. Ciao Lauretta, ben sentita dopo tanto tempo, cavolo, mi fa veramente piacere. Ciao Laura, buonasera, ben ascoltata, anch'io è tantissimo che non ti sento, io campagna sono. Tony, funziona, ho messo la batteria, perfettamente funzionante il tester, Lafayette M266, poi mi fai vedere come ti funziona, però, Capo, è una fesseria comunque, è giocato. Per me. Ok. Eia, Lauretta, dai che era dopo che non sentivo, è una vita, gara. Fatemi salutare Vittorio e Laura, buonasera. Oh Luca, buonasera, ben sentito. Anche io mi tonierò da tantissimi anni che non ti sentivo. Mi ha fatto piacere risentirvi. Capito. Adesso possiamo entrare tranquillamente, non c'è problema. Io vabbè, ho mollato per 15 anni, dai, anche di più forse. E ho ripreso da 3 mesi a questa parte, non di più, ecco. E 27, sì, sto riprovando, ma non c'è più nessuno. Ecco questo aggiggio, dai, ritrovo un po' di amici e ci facciamo un po' un questo più tranquillo. È vero, hai ragione, sì, hai ragione. Ciao Claudio, comunque ben sentito anche a te, dopo tanto tempo. Mi ha fatto piacere risentirti. Ok, riprendi Cla. Ehi, qua siamo, oramai l'altra fase è tutta abbandonata, così facciamo 2 chiacchiere con i vecchi amici e stiamo meglio. Ok, oh Manuel, lo senti a Vittorio, sì? Ehi, a voglia, ciao Vittorio, ciao Laura, ben sentiti. Dai, riprendete voi, rimango un attimo in quell'X, che devo fare alcune cose qua, dai, vai Tony. Ok, K, bocco l'X, Manuel. Bene, Meda. Ok, Luca, riprenditela. E adesso io riprendo, vediamo un po' se il bagno è libero, vado a farmi una bella doccetta, dai. Rimango in ascolto, magari entro dopo. Riprendi tu, Vittorio, Laura, avanti. Ok, riprendo io che Vittorio sta guidando. Vuoi parlare, Vittorio? Ciao a tutti! Guarda, Vittorio, se non la smetti ti faccio chiamare da Paoletto, eh. Così non dormi la notte. Ciao ragazzi, oh Luca, mica io lo dico a Michele, ti faccio chiamare da Michele. Sì, fammi chiamare tu, vuoi il numero? Ce l'ho. Ah va benissimo, fammi chiamare quando vuoi, senza io. Sì, va bene, capito. È più grave, piuttosto la minaccia di Laura, Ma siete in zona? No, siamo alle punti, ce ne siamo, ce ne da Porto Torres a fare la passeggiata. Ah, ecco perché arrivate a fondo scala, proprio pienini, perfetti, sembra una telefonata. Vabbè, dai, Riprendi tu, Tony, dai, io mi rimango in ascolto, vado a farmi mi do una bella rinfrescata, ciao. Ok, dai, buona rinfrescata allora, buona docetta. Anda bene. Avanti Claudio. KK, e mi stavo mettendo a posto questi puntali. Già va bene, sì, provato Tony, funziona perfettamente, c'è la batteria a zero, ma allora tanto tempo viaggio. Questo me l'aveva prestato l'elettricista nostro e poi mi si è attaccato a mano. Ah, ma vi raggio io intanto. E tu ce la vorrà comprare di nuovo, poi te lo faccio vedere. Lo porto e te lo faccio vedere. Sì, ma la batteria, ricorda, quando non si usa per un bel po' di tempo, si tolgono, perché poi ti toglie quelle acidi e ti incasina dove sono i contatti e mentre la batteria poi non ti funziona più, bisogna pulire i contatti, è un casino, okay? Sempre tolte le batterie se non lo usi. Vabbè, io l'ho lasciata, non lo sapevo, adesso lo sto rimettendo a posto, già va bene, c'è anche il manuale e tutto. Scappa. Oh, Lauretta. Dimmi, Tony. Tanto Vittorio già ascolta, io adesso dico qualcosa e Vittorio dice se si può fare. Io ho il Maofeng, quello piccolino, palmare, piccolino, proprio un giocattolino, C'ho la tenezzena, giustamente, e vorrei adattare uno di quei microfoni piccolini, però l'attacco non va bene, bisogna modificare, si può modificare, sono quei spinotti che sono saldati però, e tagliandolo e unendo i fili, facendo come si fa a baracchino, va bene lo stesso? Un adattatore ci vuole, li devi cercare in internet, riprovi gli adattatori, capito? Perché tagliandolo, tu non fai io collegare dei fili o scambiandoli? Se lo sai fare già si può fare, ma fai un coso, un rattoppo, va. E vabbè, pazienza, tanto ne ho tre, uno devo sacrificarlo. Capito? Tutti e tre non funziona il manculo, uno mi mette la portante, l'altro è come che non esiste, boh. Hanno tutti connessioni differenti e ognuno ha la sua. Si cappa. Vabbè, comunque non è quello che ti volevo portare, è un'altra cosa ancora, quello te la porto male. Anda bene, è così, comunque bella passeggiata, dai, io non ne voglio passeggiare. Sto bene qua in campagna. E sta veramente bene, avanti Cla. Non ti manca anch'io, non ti manca niente. Sì, Vittorio, ma per usarlo, per non stare a comprare adattatori, ne vale la pena, magari costa più l'adattatore, eccetera. Le stavo dicendo, prendi uno spinotto di quelli jack, no, dai cuffie, di quelli che attacchiamo ai baracchini, da colonnina esterna, quello lì, no? E quello lo tagli e intanto due fili sono me. Ti prendi la portante e la ricezione, la ricezione la fai direttamente dalla radio, capito? Giusto per usarlo, perché tenerlo in mano è una rottura di scatole, capito? Quello gli ho detto me. Sì, ma se vuole saldare, fare, se non gli importa l'estetica, già se lo fa. Futti l'estetica, è una cosa, si vede il jack anziché vedersi il suo originale, perché quelli sono precompressi, capito? Viene male a invertire i fili, quindi lo devi eliminare. E ne metti un jack di quelli normali, mi pare che sia quello, adesso non so se è quello piccolo o quello grande la portante. Penso che sia quello grande comunque, perché quello piccolo mi pare che era la ricezione. La ricezione l'ascolta dalla radio, la portante ce l'ha dal microfonino. Due fili, insomma, già si può fare, capito? Magari portatelo quando vai a portarli con l'altra roba da Vittorio. Te lo taglia e te lo salda. Ci vuole un secondo. Lui che c'ha manualità ci mette un secondo. Certo, l'estetica non è un granché, però vedi lo spinottino unico e basta. E vai, Vittorio c'ha altre cose da fare, dai, c'ha molto lavoro, già gli devo portare quell'altro barasone piccolino che, insomma, non è che roba di microfono, o sarà il relì, o sarà quel cacchio, o la valvola è stata messa male, non lo so. Sì, il relè è quello, il relè, vai tranquillo, si è attaccato qualche piedino del relè, di solito quando fa così è il relè. Se non aggancia, non ti aggancia il relè, si fa di... O è partito il relè o si è attaccato qualche piedino del relè. Faglielo controllare a lui e ti dice che cos'è. Ma ti pare che si brucia un fusibile e tu mi vieni ad attaccare un filo in rame, saldato da parte all'altra, chi ci lo fa io quando avevo 8 anni, a chi non comprendi nulla. Ma oh, più macro lo vuole Bassola? Ma funziona così. Quando ero in cantieri io da giovane, no? Lo capo cantieri, un maestro finito veramente in tutto e per tutto, capito? Era gente che ci vantava un bene. Gli dizia, tu non sei un operaio finito, tu sei massa e sruppio, capito? Così sono questi, si pensano di essere chissà che cosa e sono nuda. E allora, Mastro Baletta e Mastro Gianchetta, avanti Laure. Un attimo al telefono. Scappa, ti prendi tu Vittorio, no tu stai guidando. Lascialo guidare Vittorio, Manuel. Via, sta, telefono. Sta giurito. Guardate, io sono ballavatrice, Tony. Ma a fine menina, che mi si piazzi, è già roba di un mese e mezzo, 2 mesi, per musica, boh. È un peccato, nuovo nuovo. Cazzo, lei da ridere, se l'ha tirato 2 mesi, non ha fatto nulla. Perché quello c'è altro lavoro da fare, era Urbia, quindi. Mi ha detto, guarda, non sei sincero. Eri più onesto se mi dicevi, Tony, non te lo posso guardare perché o sono incassato il lavoro. Io sono molto felice e fiero, contento che tu hai molto lavoro, perché la voce lavoro non ce n'è. Sono contentissimo, però non mi dire sì, lo prendo e gli do la guardata e poi cerco di fare qualcosa e poi non lo do che ne manca, sono appena abbassi. Quello mi dà fastidio, io sono onesto sulle cose. Se io una cosa non posso farla, non te la faccio, sono troppo impegnato. Ne parliamo fra una settimana, 2 settimane, quello che è. Ma non è che io mi prendo impegni e poi non le mantengo, o non riesco a mantenere manco uno. Impegno si prendo uno alla volta, basta. Se non finisco uno posso prendere l'altro. Io sono fatto così. Ma bisogna essere così, se non può farlo non può farlo. Non è che prende la roba e poi la roba in casa sua. Lo so, vabbè, purtroppo è andata così. Avanti Claudio. Vabbè, dai. L'importante è che sia risolto, nel senso che te l'avrei restituita e ti ha detto che per il momento non te lo può fare. Purtroppo capita così, magari uno prende degli impegni e poi entra lavoro urgentissimo, è chiaro che devi mollare e fare quello urgente che serve per, capito, per il quotidiano. E così dai, pazienza. No, portaglielo a Vittorio. Se è una cosa che può fare lui, te la fa e via, capito? E cappa. Sì, ma in effetti uno sarà bravino giustamente, ma è troppo incasinato il lavoro. L'altro è un asinello su queste cose, quindi io ho sbagliato. Non ci voleva neanche andare dall'asinello, e vabbè. Tony, te l'ha già detto, può succedere. Può succedere che lì o è partito il relè forzando qualcosa oppure si è staccato qualcosa, ma di solito quel difetto lì lo fa il relè, capito? Lo fa il relè, slitta e non aggancia, tutto lì. Vabbè dai, Vittorio, sei arrivato? No. Sono in movimento, ma zona d'ombra qua so. Che altezza sei più o meno, Vito? Incrocio della muerte. Mi ascolti bene quella zona? Sì, sì, benissimo. Capa, va ancora bene sta antenna, ragazzi. Hai capito, Manuel, eh? Se bene sì. A me che non mi intendi, Vittorio. Già arrivate todos. No, io sono basso e sono in campagna, con l'antenna attaccata all'albero. Così, anche a Claudio sento, fate il conto, nonostante sia zona l'ombra. Allora, se ti viri il binocolo e ti vengo, io sono su a Monteolo dove c'è il ripetitore della RAI, fate il conto. E io vedevo questa roba, si muoveva insieme al ripetitore della RAI, non sapevo chi era, me, tutti. Allora chi evi tu? Sennò come faccio a essere la torre? Allora io vedevo questo, muovendosi in cima, ho detto chi è, chi non è. E lì c'è aria fresca. Io, Vittorio, sono zona San Camillo. E arrivi bene qua, a voglia. Tutti campagnoli, San Camillo. Ci sta bene, Vittorio, non brego nessuno. E non trovi né senegalesi né nulla. La macchina sotto il cancelletto. Entri dentro, piano terra, e sto così bene, i 2 cagnetti. Oh. Anche quello è vero. Adesso provo qui a vedere se becco qualche ripetitore toscano da questa zona. Qui arrivi nei riducani, non risiussinchi, riducani. Sì, c'era qualcosa 675 stamattina. C'era un questo, non so che ponte sia, forse la Liguria, arrivavano benissimo, alla grande. No, ho visto che c'è una terra piccolina, una X50, con 2 metri di tubo dentro un barattolo di quelli di tinta, è appoggiata in terra, però la zona è molto alta, molto alta, arrivano, arriva tutto, va bene. Uia, sì, Tori, quell'antenna va leggermente spostata da dove, ma leggermente staccata da quell'altro tubo, anche con quella stessa altezza, oppure se la vuoi tirare su un altro metro è più che sufficiente. E K. Sì, che antenna è che ho, Manuele? Non me la metto più. Una discona, Vito, una discona sto usando. Va, Vito di zona d'ombra. Questa è tosta la frequenza in UHF, basta ci sia una leggera zona d'ombra, è un casino, io per quello infatti non uso mai il portatile, perché sennò è un manicomio. Ui, vabbè, dai, per Dio ce lo facciamo. Ah, mettiamo a posto, non si preoccupi, Tony, non ti preoccupi, poi per la macchina già adesso ci lavoro io, vediamo che cosa fare. Ma ma va bene allora con l'antenna lì o che cosa? No, non ne ho di quegli adattatori. È un casino, bisogna tagliare, metterle. No, cazzo, quello si può tagliare e mettere direttamente il PL, perché non va bene? Cazzo sto dicendo? Sì che va bene. Lì si taglia quel connettore e si mette uno di quei PL piccolini, di quelli piccoli che a filettatura. Allora glielo fai, ma per lunedì è pronta? Sì, la facciamo direttamente lì venerdì. Ce l'hai uno di quei PL piccolini, Tonio? Lo porto io. Piccolini come c'ho PL normali? Quello che c'è il coso fisso per il 58. Vogliamo più piccoli. Quello piccolino che c'è corto, non quelli grandi, quelli corti piccolini che avvitano. Che avvita, la calza avvita. No, non ce l'ho quelle piccole. Le ordinate, Cla, quando arrivano, te lo dico. E vabbè, non ti preoccupare, portala quell'antenna venerdì. O Manuè, che le attacchiamo il piede e la proviamo in macchina. Veglia, ok. Andà bene. Sto guardando nella mia scatoletta se c'è uno di quei PL piccolini, ok, aspetta. Comunque c'è anche la sua basetta magnetica, Tony. L'attacca alla macchina, boh, and si muove. Vabbè, io basette ne ho due. Una macchina da nastra, devo da mai bere per tagliare. E cosa? I basetti. Basetti? Sì. Sei di zelli. Sono basetti. Ah, un clato di zelli, una catturetta mia. Tra l'altro ti chiamo un catturone, mano. Serio. Vittorio, sei arrivato a Platamona? Ah, va arrivi a Platamona. Mi auguro di sì. Anche se non va arrivo se non ha potuto la vacone. Sai che non fai l'affare mi? Cazzo, se abitavo il 10° piano ti avevo ragione, ma no, cazzo, che abbiano terra. Va bene, posso fare un po' l'uomo a testa. Vabbè, dimmi quando c'è l'ampio che è un poco sotto. In che zona era prima quando gli hai detto se ti ascoltavo? L'incrocio della morte. Cazzo, vedi, da lì sei già a Platamona, quasi. Io, arrivare da bene, caspita, va bene. Cos'è Tony? Arrivare bene io, va bene, sono contento. E poi lì è zona negativa, Però mi ha sentito. Appunto. Adattatore. Ho trovato l'adattatore PL. Entra. Ascolta, quel connettore. Allora, aspetta che lo guardo io. Cos'è? A punta pieno o è vuoto quel connettore? Cos'è, maschio o femmina? Adesso te lo dico subito, aspetta un attimo. Qua c'è la punta piena o c'è il buco? Allora è l'attacco maschio. Cosa vuol dire? Pieno? C'è l'attacco col piolino in mezzo. Sì, ma il piolino è pieno, in mezzo o è vuoto? cazzo, qua è l'attacco della TV. È femmina e maschio. Questo qui è maschio l'attacco. Vabbè. Adesso devo trovare la ghiera di questo adattatore, eh. Poi ti faccio vedere come sono quegli adattatori. Cazzo, va giù tutto, non scappa niente. Sì, sì, è maschio praticamente. Parlate però, parlate, io sto cercando. Ehi, Brini Emanuele. Vi ho mandato la foto dello spinotto a Claudio. E comunque sei maschio, dai. Ehi, sono lo spinotto come quelli che usano nelle antenne della TV. Ho già capito qual è. Perfetto, già è questo. Quello lì è. E si conferma. Va bene. Si conferma. Perfetto. Ehi, ciao Mari. Ehi, ciao Mari. Buonasera. Buonasera, eh. E beh. Ciao, sì. Ah, c'è Tonino e Claudio. Vai, Tonino. Io ho salutato. Ciao, Gio Mari. Avanti, Claudio. Ciao Gio Maria, sì, sono due clienti che ci aggoggia. Ok, buonasera Tonino, buonasera Claudio. E visto, acceso adesso. E visto, guardando il film, dai, dopo se ci siete già entro, dai. Ehi, andavetto Gio Maria. Ok Gio Maria, buona guardata la visione dei film. E io, senta, col microfono devo andare a caricare. Si sta scaricando la batteria, Manuè. Attaccala. E poi mi viene male a modulare. E per parlare devo avvicinarmi la mano attaccata sul caricatore, un casino. Ah, ecco, è vero. Dai, dopo vi faccio l'attacco con lui. Taglio, smuccio e vediamo un po'. A chi tenerlo in mano mi rompe le palline, che. E giamba la radio e bu. Vabbè, dai, io faccio QRX, dai. Ci sentiamo, vi ascolto. Sì, mi assento anche io, dai. Mi manco un attimo con QRX, devo sistemare qua e poi in caso ci sentiamo più tardi. Ok, Claudio, se vi ascolto, ci sentiamo, ci aggiorniamo più tardi. Si conferma, va bene, già sono qua, sto lavorando per te. Comunque, venerdì si porta con l'antenna lì o cra. A dopo. K, non c'è problema, io sto cercando l'adattatore. Così siamo a picche. Sì, ci siamo. Va bene. Che metto. È portatela a caricare, che scarico. Ciao Mari! Cari! Beh, Gio Mari! Oh, ciao! Ciao, buonasera! Sono andato un film di lui. Ci sentiamo, dai! Tutto bene, sì? Sì, insomma, non tutto bene, là. Già ci sentiamo male tramite telefono, te racconto. D'accordo Luigi, ci sentiamo, ciao. Ciao Giovanni. Ciao Luca. E beh già. E dove sei? È qua, dalla 25. E K. E la stavo ascoltando. Ho acceso adesso. Stavo ascoltando e ho sentito gente. Anche questo era già aeronati che non l'ha sentito. Ah, così l'ho acceso, adesso lo prendo da camera, in cameretta. L'ho acceso, ho sentito a Claudio, a Tonino. E sono entrato a salutarli, poi mi sono assentato un attimo. E sono di nuovo qua. Ah, stai via bomba qua, da casa sei. Io praticamente ho sentito a te con Gio Maria adesso, come l'ho acceso. Ho provato e te ci avevi niente. Io ho acceso e ho sentito a te a Gio Maria. Ciao Gio Maria, se mi stai ascoltando. E ciao già. La bomba arrivi già, fortissimo. Senti qua, va più il bello? Ma non c'è la gente lavagliere, si va a vedere. No, con Gianni, claro, arriva, vabbè, siamo vicini, dai. Ehi, qua c'è il tuo problema, non lo sento io, dai, salutalo. Ma tu bene mi ascolti, là? Fondo scala. Vabbè, anche tu sei a fondo scala lo stesso. Ehi, ma... Oh, due sara che un'orata. Orata grande? No, sui 500-600 grammi. Ah, ho capito. Adesso con la dieta andiamo a piscare. Mi sa un giorno organizziamo, già scendiamo. Quando però? Io sono sceso solo perché tutti mi dicono andiamo, dopo non andava mai nessuno. E perché era esca selettiva e basta. Certo, hanno messo la portante anche qua già. E lasciali fare, chi se ne frega. Ciao. Ti ha l'udito. Capito già. Ehi, vabbè, là, ci sei... Si ripaga... Assurdo, l'importante è già l'assento, ma Gianni no. Boh, ce la... vabbè, dai. Ci sentiamo più tardi se coincide. Ciao, Lu. Ciao, ciao. Gianni, ascolta WhatsApp. Poi già gliela facciamo la trappola a questo. Peppa! Peppa! Wie lange fahren wir noch ungefähr? 10 Minuten? Relativ, 10.